Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. E tutti da Olga e Frey, ben ritrovati e ben ritrovate con la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, il vostro appuntamento con la storia che stranamente in questa puntata è in orario. Sì, veramente non è mai stato così in orario Vallun rispetto all'attualità e alla storia, perché domani, che è il 10 febbraio, è il giorno del ricordo. Avevamo celebrato qualche giorno fa il giorno della memoria, il ricordo della Shoah, dei campi di sterminio, e subito, ecco, neanche due settimane dopo ci ritroviamo con questo giorno del ricordo che, istituito nel 2004, cito testualmente, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalla loro terra, degli istriani, fiumani e dalmati, nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Ecco, noi leggendo questo ci siamo chiesti: ma in che cosa consiste questa più complessa vicenda? Sì, esatto, è una questione che varrebbe la pena di sciogliere, come faremo nell'arco di questa puntata, perché, come vedremo, all'interno del giorno del ricordo vengono sigillate in un'unica questione, in un unico momento, due questioni che sono molto diverse. Dall'altra, quella delle foibe, quindi, ossia delle violenze nei confronti di italiani, che poi adesso andremo un attimo meglio a capire di cosa si tratta più precisamente, che vennero gettati, quei corpi vennero gettati in queste foibe che costellano il paesaggio friulano, e dall'altra la questione dell'esodo, una questione importante, cioè nel senso l'esilio di fiumani, dalmati e istriani dalle loro terre, per l'appunto. Il tutto messo in un unico discorso che diventa quello che si dice una bomba d'orologeria nel dibattito pubblico. Ecco, per disinnescare questa bomba d'orologeria abbiamo invitato un ospite speciale che è Piero Puric, ed è uno storico che fa parte del gruppo di ricercatori storici e appassionati di storia che si chiama Nicoletta Burbachi. Loro fanno un lavoro molto complesso, cercano di fare questo lavoro sul revisionismo in rete, che è un tema a cui dovremmo dedicarci più e più puntate. Loro cercano di fare questo, quindi un lavoro sul revisionismo in rete, sulle false notizie che, come ben sappiamo, diventano virali sui social network, sulle foto che sono ciò che non dovrebbero essere, e soprattutto sulle fonti. Il collettivo nasce nel 2012 ed è attivo sul blog dei Wuming, che si chiama JAP, e in particolare a marzo, quindi quasi un anno fa, hanno scritto a molte mani una utile guida, una specie di pamphlet che è scaricabile in rete, che è pensato per fruitori della materia o anche no, per insegnanti, educatori, ricercatori, giornalisti, debunker, attivisti, e ci spiega come riconoscere bufale storiche e patacche, tra virgolette, anche come districarci tra i falsi, come vedremo, che diventano virali, e come usare le fonti e smontare questo tipo di narrazione. Sì, esatto, poi tutto questo naturalmente lo troverete linkato alla pagina che accompagna la puntata di oggi, lunedì mattina, sul nostro sito www.radiovallun.info, perché è una guida molto bella, è uno strumento di lavoro molto, molto utile naturalmente. Ora, prima di entrare in collegamento con Piero Puric, ci ascoltiamo... Sì, ci ascoltiamo un bel pezzo dei Dubiasa Collective. Zbocetske krize, nemam za rizle, nemam ni ganđe aman, baš bi mi sjelo taman. Sam ja odrasto, gdje ne smiješ reći da si drugačiji glasno. I zašto ovdje od uvijek je bio zastoj, ja ne razumijem to. Kako da ovdje nikad nikom ništa nije jasno, i sad nam je i gore nego ikada smo. Na vrijeme mislili sad ne bi bilo kasno, ja ne razumijem to. Nemam para da to sudi il mi žirat, makar budi stego, brate, sa svih strana trebam pomoć od jarana. Banka neće kredit dati, pustit će me da se patim, skupa struje buja skupa hrana, kirija od stana. Kako da ne vozim ja krntiju, već nešto bjesno. Iskrivio sam leđa, sjedište je tjesno. A klima je to šiba, nemam staklo desno. Kako da promijenim to? Nemam para da to sudi il mi žiran. Makar budi steklo, brate, sa svih strana trebam pomoć od jarana. Banka neće kredit dati, pustit će me da se patim. Ja sam kokus Bekrija, marka mi kotepsija. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman. Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman. Bentornati su Radio Città Fujiko, siete su Vallun ed è la vostra mezz'ora di storia. Noi già nell'introduzione ci siamo occupati del giorno del ricordo, che è domani. A proposito di questo abbiamo invitato uno storico che fa parte del collettivo Nicoletta Burbachi e che ci racconterà qualcosa sulla vicenda complessa delle foibe. Ciao Piero, come stai? Ciao ciao, tutto bene, grazie. Tutto grazie bene? Senti, io volevo cominciare con una domanda un po' diretta e poi andiamo, ci facciamo questa bella chiacchierata. Perché le foibe come evento storico è tornato alla ribalta da una ventina d'anni a questa parte? Come mai? Perché mi sembra che prima la storiografia e l'opinione pubblica non era molto presa dalle foibe, ecco. Ma premesso che io sono di Trieste, da queste parti le foibe sono un argomento che è sempre stato presente, è sempre stato molto fruttuoso da un punto di vista elettorale. Per cui i fari su questo evento non si sono mai spenti. In Italia, nel resto dell'Italia, la cosa non era molto conosciuta, anzi era abbastanza assente, era un argomento di nicchia, mm-hmm, diciamo, sì. Perché in parte c'era, diciamo, che l'argomento è tornato fuori fondamentalmente dopo la fine della Jugoslavia. La Jugoslavia era comunque considerata un paese vincitore. Era un paese che, insomma, pur avendo crisi economica continua, eccetera, politicamente aveva molto peso, faceva parte del movimento dei non allineati, eccetera, e dunque era un argomento da non toccare per questioni di equilibri diplomatici tra Italia e Jugoslavia. Alla fine della Jugoslavia, diciamo, non c'è più questo paletto, però in compenso sia anche lo sdoganamento dei fascisti che per la prima volta nel 94 arrivano al governo assieme a Berlusconi, e questo impasto fa sì che l'argomento foibe ritorni fuori, in sostanza. Scusa, mi viene da chiederti una cosa, una riflessione, cioè quindi era un argomento che non era presente all'interno del dibattito pubblico neanche, cioè nonostante, diciamo, la presenza dei tanti esuli profughi dall'Istria e la Dalmazia? Ma fondamentalmente dalle nostre parti le associazioni dei profughi hanno sempre avuto un grosso peso politico, per cui era dalle nostre parti, sì, era sempre presente. Nelle altre zone dell'Italia probabilmente perché i profughi, cioè gli esuli, insomma, non erano così concentrati in un solo posto, ma erano in realtà sparsi abbastanza in giro per altri posti, non avevano un peso politico così forte come da queste parti, l'argomento non veniva quasi toccato. Lo toccavano chiaramente nei loro fogli informativi, ogni tanto appariva qualcosa sui giornali di destra, eccetera, ma non era così pesante come adesso l'argomento, anche perché poi adesso è saltato fuori soprattutto perché a un certo punto è stata inventata la giornata del ricordo che poi appunto è stata cavalcata sia dai partiti di destra che dalle associazioni di profughi. Ecco, facendo un attimo un passo indietro, noi abbiamo parlato già di foibe esuli, ma se dobbiamo rifarci davvero alle fonti, no? Quindi a quello che c'è fattualmente nella storia, di quali cifre parliamo? Non che la storia si faccia sulle cifre, però ecco, per renderci un po' conto di cosa stiamo parlando. Allora, prima di parlare di cifre, sì, io vorrei spiegare che il cosiddetto fenomeno foibe si compone di tre punti ben distinti. E, diciamo, la prima, chiamiamola esecuzione di massa, avviene nel settembre del 43 in Istria. Perché nel settembre 43 lo Stato italiano si dissolve, il re e Badoglio scappano sotto l'ombrello degli alleati senza lasciare nessuna istruzione, per cui l'intero apparato si sfalda completamente. A questo punto in Istria accade che ci sia un vuoto di potere completo. E in questo voto di potere diciamo la popolazione, soprattutto quella di lingua croata, che per 25 anni dal 18 si è trovata a subire le vessazioni non solo fasciste ma ancora prima addirittura dello Stato che era ancora liberale italiano dal 18 al 21, e ha subito 25 anni di vessazioni in cui è stato proibito di parlare, ci sono state violenze squadriste pesantissime nei confronti dei cosiddetti alloglotti, le scuole sono state chiuse, sono stati chiusi tutti diciamo le associazioni creative, culturali, sportive, insomma c'è stata una bella opera di nazionalizzazione, c'è stato il cambio forzato di cognomi. Io per esempio ho ripreso da 2 anni il mio cognome Puric, ma era stato italianizzato in Purini. Quindi scusami, quella era una, cioè quella che di cui parliamo era una italianizzazione forzata? Certamente, praticamente tutta la Venezia Giulia, la Venezia Giulia era un territorio misto. Era un territorio in cui convivevano da secoli sloveni, italiani e croati. Con il 1918 il territorio viene a trovarsi per la prima volta sotto uno Stato-nazione, dunque uno Stato in cui la cittadinanza e la nazionalità fondamentalmente sono la stessa cosa, sì. E questa popolazione viene costretta o a italianizzarsi oppure emigrare. In realtà abbiamo già un primo esodo di popolazione slovena croata, ma anche di popolazione della componente austriaca che vive in queste zone, dei funzionari asburgici, degli antifascisti. E nel periodo tra le due guerre si calcola che circa 100.000 persone se ne siano andate da queste terre. Poi è un esodo che è completamente assente dai libri di storia italiani perché non sono considerati italiani. Dunque, ritornando a bomba la questione, nel 43 c'è questo vuoto di potere in cui la popolazione che è stata vessata per 25 anni finalmente si vendica contro chi li aveva vessati, per cui vengono ammazzati praticamente a torto o a ragione persone che sono in qualche modo identificate con il fascismo o anche più in generale col potere. E per fare questo in molti casi si utilizzano le foibe, che sono degli abissi verticali, sono delle caditoie insomma nel terreno carsico dell'Istria e poi anche del Carso, in cui appunto vengono eliminate queste persone. Si tratta però di un fenomeno abbastanza limitato, sia perché questo vuoto di potere dura solo pochi giorni, sia perché appunto avendo delle forme fondamentalmente anarchiche, in realtà poi quando i partigiani cercano di normalizzare la situazione, questa situazione anarchica viene fondamentalmente bloccata e sono proprio i partigiani a prelevare quelli che sono ancora vivi, a metterli al sicuro in attesa di processi. Poi però arrivano i tedeschi, i partigiani a questo punto, che sono riusciti un po' a normalizzare il territorio, non riescono, sanno che non potranno affrontare i tedeschi, per cui le persone che sono state prese prigioniere in attesa del processo, in alcuni casi, questo dipendeva a seconda di chi comandava, aveva il comando partigiano dei vari paesi, in alcuni casi vengono liberati e in altri casi vengono ammazzati senza processo. In totale io calcolo che le foibe istriane debbano avere, del 43, debbano avere un numero di morti nell'ordine dei 300-400, forse al massimo 500 persone. E poi si parla di nuovo di infoibati nel 1945, quando invece viene la città di Trieste viene, come si preferisce, liberata dalle truppe partigiane o occupata dagli jugoslavi, a seconda appunto di come la si pensa, e anche in questo caso ci sono degli episodi di fondamentalmente vendette personali nei confronti di collaborazionisti o cose del genere. E nel caso delle foibe triestine del 45 i numeri sono ancora più bassi, credo che non si arrivi nemmeno al centinaio di persone. Invece poi vengono definiti infoibati anche tutti i prigionieri di guerra che l'esercito jugoslavo fa quando entra nella Venezia Giulia, entra a Trieste, entra a Gorizia, eccetera. L'esercito jugoslavo, l'esercito di Tito, l'esercito di liberazione jugoslavo, è considerato a tutti gli effetti un esercito alleato, per cui gli italiani si arrendono agli jugoslavi e qualche migliaio di militari italiani viene preso e deportato nei campi di prigionia jugoslavi. Però nei campi di prigionia jugoslavi questi soldati italiani non se la passano chiaramente bene, perché insomma pensiamo cos'erano i campi di prigionia quella volta, pensiamo quelli in Russia o anche i campi di prigionia francesi o inglesi, insomma non è che se la passassero molto bene, però comunque molti di questi tornano dai campi di concentramento. Secondo una mia stima, in tutta la Venezia Giulia, tra il 43 e il 45 le sparizioni, diciamo, quelli che si potrebbero definire desaparecidos, che siano infoibati o invece la maggior parte deportati nei campi jugoslavi, sono tra i 1200 e i 1800, non di più. Ribadisco che di questi che vengono tutti sommariamente definiti infoibati, in realtà gli infoibati reali sono solamente quelli del 43 in Istria e quelli del maggio del 45 a Trieste, mentre il grosso delle persone che sono scomparse in questo periodo sono prigionieri di guerra, che poi, ribadisco, in buona parte ritornano dalla prigionia. In realtà muoiono in prigionia quelli, si muore anche per malattia o per cose del genere, e per esecuzioni che però riguardano persone che sono identificate come effettivamente facenti parte di milizie fasciste, robe del genere. Ecco, quindi stiamo vedendo come di fatto, cioè nel senso, andando a guardare le fonti storiche, facendo un ragionamento di tipo storiografico, la narrazione cambiano i numeri, ma non perché ci interessi fare un conteggio, e come sappiamo naturalmente il numero delle vittime non ha qualcosa di faticoso da fare, questo conteggio, ma cercando semplicemente di raccontare quello che sono stati i processi, inserirli in un contesto storico e soprattutto capire come si è sviluppato realmente poi, sulla base di quello che emerge dalla base di una ricerca scientifica, per l'appunto. Adesso, prima di passare alla prossima domanda, ci ascoltiamo un pezzo e poi torniamo subito. Stigle, da imamo još samo par godina za nama. Imali smo igračke i živjeli smo sve, sve one igre na sreću, one igre za ljude, što je smislio neko pre samo par godina za nama. Mine's bigger than yours. Živimo u pričama, branimo se, hodamo i slavimo neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče, što je smislio neko u samo par godina za nas. Reči, samo obične reči, da me vrate u život, nije dovoljan dodir, ni da znam da te imam, još samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem, da li znam šta treba da znam, voli me. Bene, siete sempre su Vallun, questa è la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Siamo in collegamento telefonico con Piero Puric del collettivo Nicoletta Burbachi, con cui stiamo discutendo e con cui ci stiamo confrontando a proposito della giornata del ricordo, della questione delle foibe, che anche quest'anno sta rumoreggiando parecchio nel dibattito pubblico. Dibattito pubblico in cui spesso purtroppo la parola degli storici viene magari un po' additata male, ecco. Senti, Piero, volevo chiederti una cosa. Numeri, una narrazione potente, una narrazione che si fa via via sempre più potente. La questione è di dibattito anche adesso in Friuli. Dicevi che è sempre stato così. Mi veniva in mente un intervento che aveva fatto l'Alessandra Kerzevan qualche anno fa a Bologna, in cui raccontava anche il ruolo giocato dal Partito Comunista Italiano in un confronto con il Partito Comunista Jugoslavo nel riportare questo tipo di discorso. Ma ci puoi raccontare in che maniera ha pesato la questione questa questione della memoria su Trieste, sul Friuli, e in che maniera sta pesando tutt'oggi? Cioè, mi viene in mente gli atti fatti dalle varie giunte di centrodestra del Friuli, per l'appunto, in questo senso. Ma secondo me più che il discorso foibe pesa il discorso esodo su queste zone, perché effettivamente dal 54 in poi a Trieste sono stati insediati decine di migliaia di profughi istriani. è il discorso, il discorso politico è diventato fondamentalmente quello di riconoscere appunto agli istriani una di riconoscere il fatto che appunto avevano sofferto, erano stati maltrattati, eccetera, eccetera, che peraltro è più che giusto fare, ma poi in realtà il loro insediamento sul territorio è stato fatto apposta per rendere il territorio più italiano possibile. In realtà Trieste non era una città italianissima, come si diceva, perché se dal 47 al 54 la città era indipendente, era, si chiamava, lo Stato si chiamava Territorio Libero di Trieste, e durante questo periodo ci sono state due elezioni e circa due quinti della popolazione si esprimeva per partiti favorevoli all'indipendenza. E dunque insediare gli istriani nel 54 dopo la fine del territorio libero di Trieste significava renderlo un territorio molto più sicuro per l'Italia di quanto fosse prima, e dunque anche per questo tutti questi temi sono stati molto sensibili elettoralmente, perché sono stati giocati proprio politicamente. Peraltro l'uso degli insediamenti istriani da un punto di vista politico non è stato attuato solo qui, ma a me viene in testa per esempio Carpi. Carpi era una città, vabbè, la conoscete meglio di me, insomma, era una città rossissima, era un paese, rossissima, e il campo di Fossoli venne tramutato praticamente in insediamento per gli istriani, per insediarli proprio per rompere questo monopolio elettorale che aveva il Partito Comunista. Un po' la stessa cosa è successa anche qui. Guarda Piero, noi purtroppo saremmo a parlare ancora per molto tempo, ma il tempo a disposizione è quasi scaduto, quindi ti chiedo un flash davvero sulle, perché forse Vallun non è mai stata così attuale come questa puntata, rispetto alle polemiche di questi giorni sull'Ampi. Qual è un tuo pensiero flash, proprio da storico, ecco, da vero studioso della materia? È difficile limitarsi a essere storici in questo caso. Esatto. Secondo me il fatto che l'Ampi sconfessi, l'Ampi nazionale sconfessi delle iniziative che non hanno nulla di antistorico, anzi sono fatte da miei colleghi che sono estremamente rigorosi nella loro ricerca, e li sconfessi senza aver letto nulla di quello che queste persone scrivono, senza sapere praticamente di cosa parleranno, e sulla base di voci, e per non pestare i piedi fondamentalmente a Salvini oppure ai vari fascisti, eccetera eccetera, mi pare che la dica lunga su come venga interpretato dall'Ampi nazionale sia il termine partigiano sia il termine antifascista. Bene, grazie ancora a Piero Puric, di cui troverete notizia per l'appunto sulla pagina del nostro sito www.radiovallun.info a partire da lunedì mattina, insieme alle informazioni d'accompagnamento. Grazie ancora veramente a Piero, perché ci ha guidato in un bel ragionamento sulla questione della giornata del ricordo, sulla questione delle foibe e sulla questione del confine orientale, un argomento che varrebbe la pena di approfondire veramente. Esatto, poi lo troverete, come diceva Frey, sul sito, ma vale la pena davvero perdere un po' di minuti per leggere un bel dossier che è uscito un paio di anni fa su Internazionale proprio a cura del collettivo Nicoletta Burbaghi, che spiega davvero bene tutta la questione delle foibe. Bene, per oggi è tutto, appuntamento alla settimana prossima, un buon proseguimento di giornata a tutte e tutti da Frey e Olga. Ciao.